आती है अरे बच्चे ब्रश गुमर गए न मानिए Grazie a tutti. per mangiare, io mezzo di appena, casa, la, devo prepararmi anche cosa mangiare, via. Ma a mezzogiorno, già è presto. Sì, vabbè, c'è proprio il salaggio, via tanto, sicuro che cosa dice mi fa, cosa ne c'ha la cosa, i gamberi, cosa ne so. Mi succede subito. Fatto volo, volo, per tutto, non va in campagna. Cosa? Il volo, proprio il salaggio, sto mangiando. Ma alla fine sono preso il culo. Sì, ho sentito. No, a Natalina una persona seria. bisogna dare a quello che è di Cesare a Cesare, capito? Non bisogna stare mai parlando in certi modi. No, comunque, l'importante è che ci si comporti bene, ecco, perché molto molto volta c'è qualcuno che esagera, a dire la verità. Ciao Vittorio, ben sentito, sono entrato giusto giusto per salutarti, saluto da te e quella della familiare. Ciao, altrettanto a te, si ricambia tutto a Cesare. Ben sentito. Sei entrato, ma come mai? Sono entrato perché ho sentito la tua voce che è numero uno qua, eh? Addirittura, esagerato. Già questo apparato è un cibito sempre trascorso. Non fosse per questa centralina che mi dà questo effetto un po' così. Sarebbe stato un fetano bronchiale. Gappa, gappa. Se le nuove salute, visto che sto facendo carica, se coincide a più dopo. Ciao, ciao, tutta la ruota, ciao. Ok, stiamo tutti, buona carica, buon punto, dai. Ok, a te, Anto. Ciao, buona carica, buon tutto. Allora, grazie, avresti mangiato di buono oggi. Sì, allora mi ne giunta così, a me di buoni, con una stessa risposta, com'è Paolo? Brava, calma, hai chiamato un po'. Cosa? Tutto mi scuglio, perché è bravo perché non è torto, mi ha letto, ma mi ha dato la metà. Ma qua c'è la dieta, hai detto. Sì, la dieta la abbiamo da lui. E poi quello poco più, che peso hai detto? Grazie al nostro, adesso che c'è. Si sta preparando per chissà quale pietanza. Qua mi sto preparando il sugo, mi resta a girarlo a mia moglie. E siccome ieri ho fatto il salsiccione fresco, cioè salsiccione, salsiccia fresca nella graviglia, rapida, e me ne è rimasto un bel pezzo. E gli stava gira, c'era un po' in mezzo allo sugo, e poi avevo fatto delle antunne, no? Con aria per sempre, me ne sono rimasti. E gli stava un po' tutti in mezzo. E mi posso lo sugo. E le faccio le lasagne, quella all'uovo, le condisco con quello. Poi la seconda si cotta in forno, un collo, un patato e un paio di quaglie. Arrivare mi li raccolate la corraccia. Ah, le quaglie le biscette, Antone. Gravia a cucina al muretto e verrà a scongelare. Ad aprile non verranno più, le biscette. Si devo io su un chilo di roba si sta buscando. E tre o quattro quaglie c'erano dentro il sacchetto, sono le quattro dal soffetto. Perché la mia l'ha già avuto io, la carne non l'ha già avuta. Già lo vedo, non macchino, figurati. Vittorio, ripiglia un secondo, ti faccio un attimo di bianco, ci riprendo subito. Ehi, ha visto da come i cupoli. Perfetto, capito. Segnale, forte e radio super, non c'è problema. Io ho questo ecco qua, adesso lo posso passare un pochino, ma credo che si senta bene. Adesso per stai chiamando tu da l'isola di San Camillo, così, se non erro. No, negativo, l'altro posto, zona Monte Oro. Ah, vicino in campagna, sono un mesetto, se mi ci devo scendere, sono sceso da poco per tagliare l'erba, però uno non è già tagliato, tanto ha fatto tempo brutto, adesso se cambia scende la taglia, se no non li taglio, non la taglia qua, da quelli non male, più e torna a cresci. Sì, io ho chiarato, a tradizione. Però è crescendo, ma tu pensavi per la campagna cosa, a come si chiama, la chiesa di Sant'Antonia, in quella zona lì? Sant'Antonia, però su a tutti, capito, però posso passare da Monte Oro, oppure da dove c'è il bruciatore, o da Canica, capito, da Sant'Antonia. sacerdote la chiesa è combattuti, non so se lì ci sei mai arrivato e tu. Sì, mi sono cantato per gli ultimi. Io sono curioso, un po' più avanti, capito? Sulla sinistra, verso il canale 5, sulla sinistra del canale 5. Sì, ma dove c'è la chiesa, c'è quella biglietta verde, adesso non mi ricordo, quell'amico mio. No, da lì sono migliaia di metri di linea d'aria, da quello che c'è tutto, oltre la superstrada. Ah, no, perché quello che c'è lì è un amico mio, là non mi ha messo il nome, c'è quello a me senza andarsi. Cioè vicino, non è distante la residenza. Solo che io non ci scendo perché gli ti vedo la tagliata, la rossa sono tagliata 5-6 volte. Per tagliare l'erba da vedi anche da superare la allunga 20 centimetri. Questa volta non le taglio. Guarda, aspetta la taglia ultima, cosa la sciocca fa e gli va a mattonarmi un capo da vedo raffresci. Se vedi qui vicino a casa l'hanno tagliata già tre volte e già torna l'onga. A che fase cresci? Basta l'umidità la notte che già si cresce, capisci? Io l'ho arato qua, io ho un metro, l'ho arato e sta crescendo di nuovo l'erba. Va a finire che tra una quindicina di giorni devo di nuovo riararlo nuovamente. E non so, purtroppo, lo vedi che a momenti ci sono, a momenti piove. Adesso ci abbiamo una perturbazione, forse domani piove di nuovo. Mi ricresce di nuovo l'erba anche a me, purtroppo. Però, vuol dire che il pugliatore, non è che posso stare pure degli sfogliatori, devo purtroppo riarrarlo nuovamente, è una fregatura, ma la natura non è abbiamo comandata. Sì, infatti, ma io adesso, infatti, voglio parlare io però io ti sapevo e gli ti ha detto che fate torre e vado a lui. No, lì è così. Avanti, registrato. Stamattina si è svegliato un caso con un pensiero presto per venire dall'intento. Ah, Lucia. Allora, ciao a te, buonasera anche a te. Sì, ciao Massimiliano, anche a te Gianni. Ma che a me è registrato Massimiliano?